Edith suonò magnificamente. A metà del brano la porta si aprì un po' e Edith vide il capitano Lennox che esitava a entrare. Smise di suonare e si precipitò fuori dalla stanza, lasciando Margaret lì in piedi, confusa e tutta rossa per l'imbarazzo, a spiegare agli ospiti stupiti quale visione aveva causato l'improvvisa fuga di Edith. Il capitano Lennox era arrivato prima del previsto o era davvero così tardi? Guardarono i rispettivi orologi e, opportunamente sbalorditi per l'ora, si congedarono. Poi Edith tornò raggiante di felicità, accompagnando dentro un po' timidamente e un po' con orgoglio il suo alto e bel capitano. Suo fratello gli porse le mani e la signora Shaw lo accolse con i suoi modi gentili e premurosi, e non senza un che di lamentoso che proveniva dal solito vecchio pensiero di essere vittima di un matrimonio sbagliato. Adesso che, morto il generale, aveva tutto ciò che desiderava dalla vita e ben pochi inconvenienti, non le era facile trovare se non un dolore e almeno una preoccupazione. Tuttavia, negli ultimi tempi, aveva deciso che la sua fonte di apprensione fosse la salute. Aveva una leggera tossetta ogni volta che ci pensava e un compiacente dottore le prescrisse proprio ciò che lei desiderava, un inverno in Italia. La signora Shaw aveva desideri intensi, come la maggior parte delle persone, ma non le era mai piaciuto ammettere apertamente di fare qualcosa soltanto per se stessa o per piacere personale. Preferiva che fosse il comando o il desiderio di qualcun altro a costringerla a gratificarsi. Si convinceva realmente di piegarsi a una qualchedura necessità esterna. In tal modo poteva lamentarsi e protestare, con i suoi modi gentili, tutte le volte che faceva in realtà proprio quello che desiderava. Fu così che iniziò a parlare del suo viaggio al capitano Lennox, che non potendo svincolarsi assentiva a tutto ciò che la futura suocera diceva, mentre con lo sguardo cercava Edith, impegnata ad apparecchiare di nuovo il tavolino da tè e a ordinare prelibatezze di ogni tipo, nonostante lui le avesse assicurato di aver cenato da non più di 2 ore. Il signor Henry Lennox, il fratello, se ne stava in piedi, appoggiato al caminetto, divertito dalla scenetta familiare. Era accanto all'avvenente fratello, in una famiglia in cui tutti erano straordinariamente belli. Lui era il più bruttino, ma aveva un volto espressivo, intelligente e vispo. E di tanto in tanto Margaret si chiedeva cosa stesse pensando, mentre, pur se in silenzio, era evidente che osservava con un interesse velatamente sarcastico tutto ciò che lei e Edith facevano. Il sarcasmo era dovuto alla conversazione tra zia Shaw e suo fratello. Non aveva nulla a che fare con l'interesse che gli suscitava ciò che stava guardando. La riteneva una bella scena, quella delle due cugine indaffarate nei loro piccoli preparativi attorno al tavolo. Edith voleva fare quasi tutto da sola. Le piaceva dimostrare al suo innamorato che si sapeva comportare come la brava moglie di un militare. Si accorse che nella teiera l'acqua era fredda e fece portare il grande bollitore della cucina, col solo risultato di trovarlo troppo pesante per lei quando tentò di portarlo dentro andandogli incontro sulla porta. Così era entrata imbronciata, con una macchia nera sul vestito di mussolina e lo stampo del manico sulla paffuta manina bianca, che mostrò al capitano Lennox proprio come una bimbetta dolorante, e naturalmente il rimedio fu lo stesso in entrambi i casi. La lampada a spirito che Margaret si era affrettata ad adattare fu la soluzione più efficace, anche se non proprio quella tipica di un accampamento zingaro, che Edith talvolta diceva essere la cosa più simile alla vita di caserma. Dopo questa serata fu tutto un trambusto fino alla fine delle nozze. 2. Rose e spine. Alla luce tenue di verdi e radure ombrose, giocasti, bambina, su zolle coperte di muschio. Tra i rami dell'albero di casa tua, la prima volta, presa d'amore, guardasti il cielo d'estate. Mrs. Hemans. Margaret indossava nuovamente l'abito di tutti i giorni mentre viaggiava tranquilla verso casa con il padre, che era venuto ad assistere alle nozze. Sua madre era rimasta a casa, trattenuta da una miriade di mezze ragioni che nessuno comprendeva del tutto, eccetto il signor Hale, ben consapevole che a nulla erano valsi tutti i suoi discorsi a favore di un vestito di seta grigio, né vecchio né nuovo, e che siccome lui non poteva permettersi di rinnovare dalla testa ai piedi il vestiario della moglie, la signora Hale non si sarebbe mai presentata al matrimonio dell'unica figlia della sua unica sorella. Se la signora Shaw avesse immaginato per quale vera ragione la signora Hale non accompagnò il marito, l'avrebbe ricoperta di abiti. Erano passati quasi 20 anni da quando la signora Shaw era stata la povera bella signorina Beresford. E le sofferenze le aveva dimenticate davvero tutte, eccetto quell'infelicità che scaturisce dalla differenza di età tra marito e moglie, sulla quale riusciva a dilungarsi per delle mezz'orette. La carissima Maria aveva sposato l'uomo che amava, di soli 8 anni più vecchio, con il carattere più dolce che si possa immaginare e i capelli di un nero brillante come se ne vedono raramente. E il signor Hale era uno dei predicatori più affascinanti che avesse mai ascoltato e un parroco modello. Forse non era una deduzione del tutto logica, visto queste premesse. Tuttavia, quando pensava al destino della sorella, la tipica conclusione della signora Shaw era: dopo essersi sposata per amore, cosa vorrà mai ancora da questo mondo, la mia cara Maria? A essere sincera, la signora Hale avrebbe potuto rispondere con una lista bella e pronta: un taglio di seta lucida color grigio o argento, un chip bonnet bianco, oh, decine di cose per il matrimonio e centinaia per la casa. Margaret sapeva soltanto che sua madre aveva preferito non venire e non le dispiaceva pensare di ritrovarla e riabbracciarla a Helston nella canonica, piuttosto che nella confusione degli ultimi 2 o 3 giorni in Harley Street, dove lei stessa aveva avuto la parte di Figaro, correndo di qua e di là tutto il tempo. Soffriva ora nel corpo e nell'anima al ricordo di tutto quello che aveva fatto e detto nelle ultime 48 ore. I saluti così affrettati tra tutti gli altri addii rivolti a coloro con i quali aveva vissuto così a lungo la opprimevano con un acuto dispiacere per i tempi passati. Non era importante come fossero stati quei tempi, se n'erano andati per non tornare mai più. Margaret sentiva il cuore pesante, molto più di quanto si fosse immaginata per il ritorno all'amata casa, al luogo e alla vita che aveva desiderato ardentemente per anni. E lo sentiva ancora più intensamente proprio in quel momento di desiderio struggente, un attimo prima che l'acutezza dei sensi sfumi nel sonno. Deviò bruscamente dal ricordo del passato per fantasticare su un radioso futuro pieno di speranze. I suoi occhi iniziarono a vedere e non erano visioni di ciò che era stato, ma di ciò che aveva di fronte: l'amato padre che dormiva appoggiato sul sedile del vagone, i suoi capelli neri erano grigi ora e ricadevano sottili sulla fronte. Si vedevano nitidamente le ossa del viso, troppo nitidamente per i canoni di bellezza, se anche i suoi tratti fossero stati più grossolani, dato che non lo erano, possedevano un loro fascino, se non una vera avvenenza. Stava riposando, ma sul suo viso non c'era la calma serena di chi conduce una vita tranquilla e felice, piuttosto un'espressione affaticata. Quell'aspetto provato e inquieto colpì profondamente Margaret e la portò a ripensare alle vicissitudini del passato che il padre le aveva confessato apertamente, in cerca della causa di quelle rughe che erano la prova lampante di un patimento continuo. Povero Frederick, pensò sospirando. Oh, se solo Frederick avesse fatto il parroco invece di entrare in marina e allontanarsi da noi. Vorrei sapere tutto di questa storia. Non ho mai capito nulla da zia Shaw. Tutto ciò che sapevo era che non poteva ritornare in Inghilterra per colpa di quella terribile vicenda. Povero caro papà, ha un'aria talmente triste. Sono così contenta di tornare a casa, di essere vicina a lui e alla mamma per confortarli. Quando suo padre si svegliò, Margaret era pronta a salutarlo con un sorriso smagliante, privo di segni di stanchezza. Lui le sorrise di rimando, a stento, come se stesse facendo uno sforzo insolito. Sul suo viso si ricomposero quelle solite rughe di inquietudine. Aveva il vezzo di aprire a metà la bocca come per parlare, il che gli deformava continuamente la linea delle labbra e conferiva al suo viso un'espressione incerta. Ma aveva gli stessi occhi grandi e dolci della figlia, occhi che si muovevano lentamente nelle loro orbite, facendo quasi un giro completo, coperti quasi del tutto da un velo di trasparenti ciglia bianche. Margaret somigliava più a lui che alla madre. Talvolta la gente si meravigliava che da genitori così belli fosse nata una figlia ben lontana da un'ordinaria bellezza, perché Per niente bella, dicevano a volte. Aveva la bocca grande, non un bocciolo di rosa che si schiude soltanto per far uscire un sì e un no, e un vi prego, signore, ma una soffice curva di labbra rosse e carnose. E la pelle, anche se non proprio bianca e pallida, era levigata finemente come l'avorio. Il volto, che di solito aveva un'espressione troppo austera e riservata per la sua età, ora era, mentre parlava col padre, luminoso come il mattino, pieno di fossette, e i suoi sguardi lasciavano trasparire una felicità infantile e una sconfinata speranza nel futuro. Era fine luglio quando Margaret fece ritorno a casa. Nel bosco gli alberi erano tutti un verde molto scuro, intenso e tetro. Sotto di essi le felci catturavano tutti i raggi inclinati del sole. C'era afa e una calma opprimente. Margaret era solita fare lunghe passeggiate a fianco del padre, schiacciando le felci con gioia crudele, mentre le sentiva piegarsi sotto i suoi piedi leggeri e ne faceva sprigionare il particolare profumo. Là fuori, sui vasti prati, nella luce calda e profumata, osservava tutte quelle creature selvatiche che vivevano libere e si crogiolavano al sole, e le piante e i fiori che vi nascevano. Una vita così, perlomeno queste passeggiate, era tutto quello che Margaret aveva atteso con trepidazione. Era orgogliosa della sua foresta. Quella gente era la sua gente. Strinse amicizie a lei care tra quelle persone, imparò i loro strani termini e si divertiva a utilizzarli. Riacquistò la sua libertà tra loro, si occupava dei loro bambini, parlava con i loro vecchi o leggeva per loro scandendo lentamente le parole. Portava pasti squisiti ai loro malati. Dopo poco tempo decise di insegnare nella scuola dove suo padre si recava ogni giorno come se fosse un impegno dovuto. Ma la tentazione di uscire, di andare a trovare gli amici, uno per uno, uomo, donna o bambino, in qualche cottage all'ombra verde del bosco, non l'abbandonava. La sua vita all'aria aperta era perfetta, quella al chiuso aveva i suoi svantaggi. Con una sana vergogna infantile si sentiva in colpa per avere una vista così acuta ad accorgersi che nulla lì era come doveva essere. Sua madre, una madre sempre così tenera e premurosa con lei, di tanto in tanto sembrava scontenta della loro condizione. A parer suo, il vescovo era stranamente venuto meno ai suoi doveri episcopali, non concedendo al signor Hale una parrocchia più importante. E quasi rimproverava il marito, poiché non era riuscito a dire che desiderava lasciare quella parrocchia e prenderne in carico una più grande. Lui sospirava, come era sua abitudine, nel rispondere che gli sarebbe piaciuto poter continuare a svolgere il suo dovere nella piccola Helston, se avesse potuto. Ma era ogni giorno più tormentato, sempre di più il mondo lo confondeva. Margaret vedeva che il padre si tirava indietro di fronte alle ripetute pressioni della moglie, che voleva si mettesse a cercare una qualche promozione, e in questi casi si batteva per riconciliare sua madre con Helston. La signora Hale diceva che la stretta vicinanza di tutti quegli alberi si ripercuoteva sulla sua salute. Margaret solitamente cercava di invogliarla per lustrare quei bei prati vasti, avvallati, striati dal sole e chiazzati dalle ombre delle nuvole. Era sicura, infatti, che la madre si era abituata troppo a stare in casa, allungando raramente le sue passeggiate oltre la chiesa, la scuola e le case dei vicini. Per un periodo ci riuscì, ma quando si avvicinò l'autunno e il tempo diventò più variabile, crebbe nella signora Hale l'idea dell'insalubrità di quel luogo e aumentarono le sue lamentele sul marito che, più colto del signor Hume e parroco migliore del signor Holdsworth, non sarebbe riuscito a meritarsi la stessa promozione che i due ex vicini di casa avevano ottenuto. A queste lunghe ore di malcontento che turbavano la quiete domestica, Margaret non era preparata. Sapeva e si era dilettata all'idea che avrebbe dovuto rinunciare a molti lussi che non erano stati altro che seccature in Harley Street e avevano ostacolato la sua libertà. L'intenso godimento di ogni piacere dei sensi era ben bilanciato, anche troppo, dal suo consapevole orgoglio di poterne fare a meno se ce ne fosse stato bisogno. Ma la nuvola non arriva mai dallo scorcio di orizzonte da dove te l'aspetti. In passato, durante le vacanze estive che Margaret aveva trascorso lì, C'erano state piccole lamentele e rimpianti passeggeri da parte di sua madre per alcune sciocchezze legate a Helston e alla posizione del padre, ma nel ricordo felice di quei tempi si era dimenticata quei piccoli dettagli non troppo piacevoli. Nella seconda metà di settembre sopraggiunsero le piogge autunnali e i temporali, e Margaret fu costretta a restare in casa più di quanto avesse fatto fino ad allora. Helston distava un bel po' dalle località in cui vivevano vicini del loro stesso livello culturale. «È senza dubbio uno dei posti più fuori mano dell'Inghilterra», disse la signora Hale lamentandosi come al solito. «Non posso fare a meno di provare un continuo rammarico per il fatto che tuo padre qui non abbia proprio nessuno da frequentare. È così sprecato. Non vede altri che contadini e braccianti di settimana in settimana. Oh! Se solo vivessimo dall'altra parte della parrocchia sarebbe già qualcosa. Lì non saremmo molto lontano da Stansfields e i Gorman sarebbero a due passi. I Gorman, disse Margaret, sono quei Gorman che si sono arricchiti con il commercio a Southampton. Oh, sono contenta di non far loro visita. Non mi piace la gente di bottega. Secondo me stiamo molto meglio lontano da loro. Solo con gente di campagna e onesti braccianti come amici, persone semplici. Non essere così schizzinosa, Margaret cara, disse sua madre, pensando in segreto a un giovane bel signor Gorman che un giorno aveva incontrato dal signor Hume. No, io mi ritengo una persona molto tollerante. Mi piacciono tutti quelli che fanno un lavoro legato alla terra. Mi piacciono i soldati, i marinai e le tre cosiddette professioni dotte. Di certo non vorrai che mi piacciono macellai e panettieri e fabbricanti di portacandele, vero mamma? Ma i Gorman non sono né macellai né panettieri, ma rispettabilissimi costruttori di carrozze. Molto bene, costruire carrozze è comunque un mestiere, e a mio parere un mestiere molto meno utile di quello del macellaio o del panettiere. Oh, non ne potevo più di uscire ogni giorno in carrozza con zia Shaw, desideravo tanto andare a piedi. E a piedi Margaret andò, nonostante il tempo. Era così felice all'aria aperta a fianco del padre che quasi danzava. E attraversando un tratto di brughiera, con la delicata violenza del vento dell'ovest alle spalle, sembrava essere spinta in avanti, leggera e disinvolta, come una foglia che si librasse nell'aria, trasportata dalla brezza autunnale. Non era affatto facile occupare le serate con qualcosa di piacevole. Subito dopo cena, il padre si ritirava nella sua piccola biblioteca, lasciando lei e la madre da sole. La signora Hale non era mai stata amante dei libri e già all'inizio della loro vita matrimoniale aveva scoraggiato il marito che desiderava leggere per lei a voce alta mentre cuciva. Una volta avevano provato come passatempo la tavola reale, tuttavia quando il signor Hale prese a occuparsi della scuola e dei suoi parrocchiani con un sempre maggiore interesse, si accorse che le interruzioni che i suoi doveri comportavano erano per la moglie delle privazioni che non riusciva ad accettare come condizioni naturali del suo lavoro, ma che anzi rifiutava, combattendo contro ciascuna di esse quando si presentavano. Così, quando i figli erano ancora piccoli, se era a casa, il signor Hale si rifugiava nella sua biblioteca e trascorreva lì le sue serate, dilettandosi nella lettura di testi filosofici e metafisici. Le altre volte che era stata qui in passato, Margaret si era portata dietro a una grande scatola di libri assegnati da maestri o istitutrici e aveva trovato le giornate estive troppo corte per leggerli tutti prima di fare il ritorno in città. Ora vi erano soltanto i piccoli classici della letteratura inglese ben rilegati, che erano stati eliminati dalla biblioteca del padre per andare a riempire la piccola libreria in salotto. Le stagioni di Thomson, Cowper, di Hayley, Cicerone, di Middleton erano di gran lunga i più leggeri, i più nuovi e i più divertenti. La libreria non era molto fornita. Margaret raccontava alla madre tutti i particolari della sua vita a Londra e la madre li ascoltava tutti con interesse, a volte divertita e curiosa, altre tendeva un po' a paragonare la vita confortevole e agiata della sorella con le ristrettezze della canonica di Helston. In serate come quelle, Margaret smetteva improvvisamente di parlare e si metteva ad ascoltare il ticchettio della pioggia sulle lamiere del Bovindo. Una o due volte si ritrovò a contare meccanicamente il ripetersi di quel suono monotono, mentre si chiedeva se poteva azzardarsi a fare domande su un tema a lei molto caro, ovvero dove si trovasse in quel momento Frederick, cosa stesse facendo, quanto tempo era passato dall'ultima volta che avevano avuto sue notizie. Tuttavia, ciò che la faceva indugiare e lasciar cadere il discorso tutte le volte che lo iniziava era la consapevolezza che la salute delicata della madre e la sua innegabile avversione per Helston risalissero al periodo dell'ammutinamento in cui Frederick venne coinvolto. Margaret non ne aveva mai sentita l'intera storia, che ora sembrava destinata a finire per sempre nel dimenticatoio. Quando era con la madre, le pareva che la persona più adatta a cui chiedere informazioni fosse il padre, e quando era con il padre pensava che fosse più facile parlare con la madre. Probabilmente non c'era niente di nuovo. In una delle lettere che aveva ricevuto prima di lasciare Harley Street, suo padre le aveva detto che avevano avuto notizie di Frederick. Era ancora a Rio, godeva di ottima salute e la salutava con affetto, il che era meglio di niente, ma non erano quelle le informazioni che tanto desiderava. Quando si parlava di Frederick, quelle rare volte, si parlava sempre del povero Frederick. La sua camera era esattamente come lui l'aveva lasciata e veniva spolverata e riordinata regolarmente da Dixon, la cameriera della signora Hale, che non si occupava degli altri lavori domestici e ricordava sempre il giorno in cui Lady Beresford l'aveva assunta come cameriera per le pupille di Sir John, le graziose signorina Beresford e reginette del Rutlandshire. Dixon aveva sempre considerato il signor Hale come una maledizione che si era abbattuta sulle prospettive di vita della sua giovane signora. Se la signorina Beresford non avesse avuto così tanta fretta di sposare un povero pastore, chissà chi sarebbe potuta diventare. Tuttavia, Dixon le era troppo fedele per abbandonarla ai suoi crolli e alle sue sofferenze, ovvero alla sua vita matrimoniale, e rimase con lei. Si dedicò ai suoi interessi, ritenendosi sempre la buona fata protettrice, il cui compito era quello di sconfiggere il gigante cattivo, il signor Hale. Il suo preferito, quello di cui andava fiera, era stato il padroncino Frederick. E il suo temperamento, nell'aspetto e nei modi, si raddolciva un po' quando ogni settimana andava a riordinarne la stanza con cura, come se lui potesse far ritorno a casa da un momento all'altro. Margaret non poteva fare a meno di credere che ci fossero notizie recenti di Frederick, di cui la madre non era a conoscenza e che rendevano il padre nervoso e agitato. La signora Hale non sembrava accorgersi di alcun cambiamento nell'aspetto o nel comportamento del marito. Aveva un animo sempre tenero e gentile, facilmente influenzabile dalla più piccola notizia che riguardasse il benessere altrui. Dopo essere stato al capezzale di qualcuno o aver sentito di un qualche crimine, il suo scoramento durava per giorni. Ma ora Margaret lo vedeva assente, come se i suoi pensieri fossero concentrati su una qualche questione che lo preoccupava, dalla quale non poteva liberarlo nessuna azione quotidiana, come dare conforto a chi restava dopo un lutto o insegnare a scuola, coltivando la speranza di diminuire i mali della generazione futura. Il signor Hale non usciva più come prima con i suoi parrocchiani, se ne stava chiuso nel suo studio più a lungo del solito, era ansioso per il postino del paese che si annunciava dando un colpo secco alla persiana della cucina sul retro, un segnale che un tempo doveva essere ripetuto più volte prima che qualcuno fosse abbastanza reattivo da capire di cosa si trattasse e se ne occupasse. Adesso il signor Hale girovagava per il giardino, se la mattina era tempo buono. E se non lo era, se ne stava alla finestra dello studio con aria trasognata finché il postino non fosse passato. O dal fondo del viottolo avesse salutato il parroco con un cenno del capo rispettoso e confidenziale. Lo guardava mentre si allontanava dietro la siepe di rose selvatiche e oltre il grande corbezzolo, prima di rigirarsi verso la stanza per iniziare il suo lavoro quotidiano, con i segni evidenti di un cuore pesante e di una mente turbata. Tuttavia, Margaret aveva quell'età in cui è facile scacciare momentaneamente le apprensioni non del tutto fondate sulla conoscenza dei fatti, grazie a una bella giornata di sole o per qualche gaia circostanza esterna, e quando sopraggiunsero le due splendide settimane di ottobre, tutte le sue paure erano volate via, leggere come la lanugine del cardo, e non pensava ad altro che alle bellezze della foresta. La mietitura della felce si era conclusa e ora che la pioggia era cessata, si poteva accedere a molte delle profonde radure che Margaret si era limitata a sbirciare nei mesi di luglio e agosto. Con Edith aveva imparato a disegnare e nelle uggiose giornate di maltempo aveva rimpianto fin troppo l'oziosa contemplazione della bellezza dei boschi durante il bel tempo e ora era determinata a disegnare quello che riusciva prima dell'inverno. Perciò, una mattina, era intenta a preparare la tavola da disegno quando Sara, la domestica, spalancò la porta del salotto e annunciò: «Il signor Harry Lennox!»